A pane, burro e rock and roll. Sono le 7 e 31 minuti. E 31 minuti primi. Problemi? If you have a problem, io sì. No one else can help. And if you can find me, da piangere stamattina. The 18. Dici che posso scoppiare in lacrime nella diretta? Potrebbe aiutare gli ascolti, dite. Ci sta, C'è l'Ariele, c'è Frick Antoni, c'è Spadino. Puntata 125 di Pane, Burro e Rock and Roll. Buona giornata a tutti, benvenuti. L'ho già confessato agli amici della prima mezz'ora. L'unica cosa che mi tira avanti quest'oggi è che alle 2 vado a Rock TV e faccio un bel bed-in. Che me frega a me. Tutti nudi sotto una bella coperta, io e l'operaio del rock and roll, e facciamo comunicazione totale. Ci ho pensato tanto, avrei voluto farlo anche in radio, però il bed-in in radio, cioè, ammettiamolo, la radio, per quanto bella, a volte ha dei delle limitazioni. Non mi vedreste tutto nudo, quindi che senso c'è? Voi dite, immaginate, sarebbe meglio? Sì. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. Da pane, burro e rock and roll l'appello. O voi che state andando al lavoro, ormai per oggi è troppo tardi, però per domani ci si porta dietro le lenzuola, arrivate in ufficio, vi spogliate, vi mettete sotto le coperte, un bel cuscino dietro e dite, ciao amici, oggi faccio un bed in. A volte ci vogliono anni, decenni per diventare un bravo musicista rock. A volte non ci vuole proprio niente. La Casa di Cura Eleonora Duse vi offre il primo corso per musicisti rock con la bocca. Con la bocca. Qual è il tuo strumento? Il mio è la batteria, senti qua. Invece il mio è la chitarra. Il mio è il basso. È facile diventare un musicista rock con la bocca. Non esitare, invia subito un SMS per il tuo provino gratuito al 335-100-7777 con la scritta Musica rock con la bocca, sì. Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Semplice, facile e veloce. Non esitare. Ovvero le ansie in ansia, o meglio, quello che gli altri non hanno avuto il coraggio e il pudore di raccontarvi, noi a Pane, Burro e Rock and Roll lo facciamo. E non solo, diciamo la verità, per raschiare il fondo del barile, ma soprattutto per riempire questa trasmissione radiofonica con cose inutili che ci sembra doveroso. E inutili ma molto rock, perché le leggi assurde, eccolo, bravo, questo è il titolo dell'argomento che stiamo per trattare, è piuttosto rock. Scusi l'imbarazzo, sono emozionato. Non si emozioni, effettivamente c'è una vera e propria mania, soprattutto via internet, di raccattare le leggi più strane, più stampalate, che si trovano in giro per il mondo. Per esempio, leggi più strampalate, ecco, ho detto qualcos'altro, più probabilmente stampalate. È sempre l'emozione che governa questa trasmissione radiofonica. Lei lo sapeva, maestro, che alle Hawaii i cartelloni pubblicitari sono vietati? No, lo riconosco, ammetto la mia ignoranza, non lo sapevo e mi verrebbe subito da chiedere perché, ma soprattutto non lo sappiamo. Questa non è la sola stranezza segnalata. Possiamo dirvi che in Michigan, se un ladro si fa male mentre svaligia una casa, può fare causa al proprietario. Sembra una legge italiana questa, sembra però, più italiana. Potrebbe avere anche un suo perché. Le cose, attenzione, forse vanno peggio per i ristoranti danesi in tutto il paese. È infatti illegale far pagare il pranzo ad un cliente a meno che la persona che ha pranzato non si sia dichiarata veramente sazia. Questo è forte, Questo è tosta. Io correrei a farmi uno snack subito in Danimarca. È vero, stimola l'appetito. Ma senta cosa le propongo. Una strana legge sembra invece accomunare Devon nel Connecticut, Green nello stato di New York, Oklahoma City e Marion nell'Oklahoma, ed infine Ridley Park, non so bene la pronuncia, Pennsylvania. In tutte queste città, qualora fosse in programma un concerto, è vietato mangiare arachidi e contemporaneamente camminare all'indietro. Il perché di questo divieto, annuncia la fonte, nessuno sembra conoscerlo. Arachidi camminando indietro, forse perché cadi e rischi che l'arachide ti si blocchi nel gargarozzo e ti strozzi di brutto, può essere. Torniamo di nuovo in Danimarca, dove un'altra legge vieta al conducente di un'auto di accendere il proprio mezzo se sotto il veicolo c'è sdraiato qualcuno. Questa mi sembra giusta, una legge che ha un suo perché, ragionevole, perché accendere giusto, la macchina se c'è sotto giusto qualcuno. Vabbè. È durissima infine la vita dei pedoni cinesi. Pare infatti che i conducenti di veicoli a motore possano essere multati in caso diano loro la precedenza, anche se si trovano su un passaggio pedonale. Si troverebbero benissimo qua in Italia. Tranquillizziamo che molte di queste norme fortunatamente sono in vigore soltanto formalmente, ma nessuno sembra osare applicarle, soprattutto quest'ultima. Ma certo, io so perfettamente. Cultura personale? Sì, di un paese che mi è vicino. Che ha la forma di una scarpa. Di una scarpa, in particolare di uno stivale, che ne ha tantissime. Stia attento. Demenziali, e questo mi diverte, obsolete e completamente assurde. D'altra parte, cosa pretendi da un paese che ha la forma di una scarpa? Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. solution to the runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche to the runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche to the runner. Some silicone sister with a manager, mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you on sun into something strong. Play the song with the funky break. Engo God Mozart was checking out the weather chart, see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Rullatona, ci sparo la rullatona. E quando finisce? Troppo lunga. Troppo lunga. Tracu, tracu, tracu, tracu. Eccola qua. Manfred Mann's Earth Band. Blinded by the Light. Mi sto allenando io, eh? Non so se lo fate anche voi. Io mi sto allenando per diventare un gran musicista rock con la bocca. È da ieri che è iniziata questa nuova campagna di arruolamento dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici per iscriversi al corso, ma soprattutto per affrontare il provino d'ingresso per trasformarsi in musicisti rock con la bocca. Io vi conosco, mascherine là fuori. So che molti di voi hanno pensato, ecco, la solita stronzata di pane, burro e rock and roll. L'avranno buttata lì. E invece no. Noi ci crediamo un sacco. E confesso che è con molto orgoglio che anche quest'oggi qualcuno, timidamente, ma qualcuno si iscrive, scrivendo il messaggio al nostro numero di SMS, musica rock con la bocca sì. Tutti voi che avete scritto verrete catalogati e richiamati nel corso di settimana prossima. Lasciateci un po' di tempo per organizzare il tutto. E dopodiché formeremo la prima band di musicisti rock con la bocca. Che io fossi in voi, non mi farei sfuggire l'occasione. Devo segnalare anche che in molti invece commentano questa rubrica del musicista rock con la bocca, segnalandoci via SMS quante altre cose vorrebbero fare con la loro bocca. Non ci interessa, l'abbiamo capito. Grazie comunque per la segnalazione. Intanto faccio un po' di saluti. Aspetta, l'ultimo SMS che arriva recita solo così: siete peggiorati tutti e due, puntino puntino puntino. Ciao patente rock 329 Fede. Saluto anche la patente 191 Viola. Posso avere una strombazzata per l'esame di letteratura russa? Alla faccia, certo. Eccola qua. Facci sapere come va. Da quando ho visto Frick alla festa della birra a Filo d'Argenta, mi sono veramente innamorata di lui. Mi piace molto anche nelle vesti di Mike, però. Posso ricevere la patente da rocker se sono dipendente Fiat? Ciao, nati verso Imola. Nati, ma perché chiedi? Perché non dovresti averla perché sei dipendente Fiat? Anzi, te ne faremo una tutta speciale per te. Solidarietà alla ragazza alla quale hanno rubato la patente da vero rocker. Che vergogna gli inglesi, sono invidiosi delle nostre patenti. Bravo. Cavolo, vi si sente male, sono ad Esio Vic a Milano. Cambio e vi sostituisco con Virgin Radio? Boh, fai pure. Effettivamente, se non puoi più sentirci, immaginaci se no. Vedi tu. A che ora è il programma su Rock TV? Che così ti guardo sul mega schermo mentre lucido l'argenteria. Luana, la nostra hostess di Yacht. Ciao Luana. Alle 2. Dai, sì, guardami sul mega schermo. Fammi vedere anche agli altri marinai, quelli che non sono rock. Forse è meglio che non la fai vedere la puntata di oggi, però, mi sa che gli viene male. Vabbè. Salutiamo anche Francesca, Lore e Ibba, che mi scrivono tutti al 335-100-7777. Ok, ragazzi? Eccola che arriva. Wow, ne avevo bisogno oggi, Lei è Janis Joplin. Ladies and gentlemen, 3 minuti di pura goduria. Summertime. Che anche sono come l'attacca, ragazzi. Io solo al pensiero che tra 9 secondi l'attacca ho la pelle d'oca. Siete pronti? Concentrati? E fatevela venire sta pelle d'oca, dai, tutti insieme. Eccola qua. Finalmente il raggio di sole che penetra attraverso le finestre di Rock FM, ma no, non arriva da fuori la luce, arriva dagli studi, perché è arrivato Roberto Fricantoni. Buongiorno! Buongiorno a tutti! quale Roberto Fricantoni, eh? Buongiorno. È stato buongiorno a lei, buongiorno. Lei chi è? Il buongiorno da buongiorno. Eccolo, Mike, buongiorno. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll. Bentrovati. Lei sicuramente vorrà fare l'almanacco del giorno che fu dell'8 di novembre. Certamente, oh, vero? È meglio di Frick, allora. Per ricordare a tutti che nel 1895, durante alcuni, e cioè diversi, numerosi... Lei ha preso da Fricantoni, però, eh? Sono prolisso quanto sì. Lui. Esperimenti sull'elettricità. Perfetto. Guglielmo Röntgen. Scopre i raggi per. Ma non dica stupidate, i raggi X. Sì. I raggi per. Sa benissimo cosa sono. Quegli stessi, sì. Che lei, DJ Ariele, non lo neghi, no. Si faceva mandare di nascosto per corrispondenza. Sì. Per vedere sotto i vestiti delle signorine. La smetta, passiamo al 1926. Viene arrestato Antonio Gramsci, verrà rilasciato nel 1935, 9 anni dopo. Durante la prigionia scriverà i suoi quaderni del carcere. Io vidi, sa, nella mia esperienza... Oh, bentornato, nella maestro. La ringrazio, nella mia cultura enciclopedica posso dire di essere stato a Ghilarza, in Sardegna, sì? Nel centro della Sardegna, dove è nato Antonio Gramsci. E posso dire di aver visto la sua casa, una casa modesta, dignitosissima, e so perfettamente che la madre, che appunto si vergognava della situazione del figlio, sgattaiolava da una porta del giardino sottostante, nascosta, per andare a messa la mattina. Il grande Gramsci però era un pensatore di tutto rispetto, tanto che il pensiero reazionario disse: dobbiamo impedire a questo cervello di ragionare. Maestro, lei ne sa sempre una più del diavolo, complimenti. Ma sì, in effetti anche il diavolo mi telefona spesso per aggiornamenti. Chiudiamo con una notizia del 1960. John Fitzgerald Kennedy viene eletto sconfiggendo Nixon, diventando il più giovane presidente degli Stati Uniti d'America. A quando Fricantoni presidente degli Stati Uniti d'America? Beh, ancora ci lavoriamo. Non saprei. Iniziamo a fare i palloncini con sulla sua faccia. Esatto, vediamo. Ci stiamo lavorando, siamo ai badge con la mia immagine. Vi faremo sapere appena troviamo una sede per il comitato. Ottimo. Mama, let Arruffato? Guarda Frigo, questa volta gli umani hanno proprio esagerato. Non gli bastava di riempirci di schifezze tutto il santo giorno, di maltrattarci a loro piacimento. Quei carnivori bastardi, anche le nostre uova si vogliono mangiare. Ma cosa stai dicendo, Rogna? L'ho visto con i miei occhi. Stamattina in cucina c'erano scatolette piene zeppe di uova di cavia. Le uova di cavia, ti rendi conto? Migliaia di piccole ovette con dentro piccole cavie, partorite dalle nostre femmine. Maledetti umani! Guarda che stai proprio sbiellando, ma da quando in qua le cavie depongono le uova? Beh, ma non ci riproduciamo con le uova, scusa. No, quelle erano uova di caviale, non di cavia e basta, caviale. E chi le depone? Storioni. Sono cavie anche loro? No, pesci. Ah, cazzi loro. I pesci mi stanno proprio sulle palle. Eh sì, gli sta bene, da matti. Pare burro vaccherò, pare burro vaccherò, mazza che figata sto programma, raga!